a nessuno. Hola, ciao Marco. E allora? Come andamos? Al solito, dai. Oggi sto mangiando un po' prima perché non mi vale mangiare troppo tardi. Capito? Già è tardi adesso, no, rispetto alle orari normali. E tu? Io c'avevo un caldo, mi sa che c'è l'aria condizionata perché qua stavo bollendo. E stamattina ce l'ho andata all'aeroporto a prendere mia figlia, è arrivata, quindi stasera faremo qualcosa. Però se quando viene l'ora giusta posso fare quattro chiacchiere, mi farebbe piacere. Basta che non siamo sempre solo in due, no? Sempre qualcuno. La gente, se sente qualcuno parlare, magari entra, se non sente nessuno spegne e basta. Come stavo facendo io gli scorsi giorni, ho provato, non c'era nessuno, spegnevo e facevo altro, non è che adesso senza fare nulla, mi ascolto musica, faccio altre cose. Lo stesso io. Sai cos'è? Tutti fischiano, magari premono la portante, però poi vai a chiamare e non rispondono. Cioè, se uno vuole, interessa a parlare, fa una chiamata, tipo attenzione canale 10. Vabbè che anch'io non è che faccio mai la chiamata, premo la portante, non un fischio, se c'è qualcuno a pizzo, bene, se no, pazienza. E macchina, più o meno ne stai, Marco? No, perché primo, vabbè, non ha senso, troppo poca gente, e poi devo risolvere questo problema della base magnetica. Provo la stessa antenna sia sulla base sua Midland che con quella Sirio, e vedo cosa mi dicono le stazionarie, la resa pure. Capace pure che sulla base Sirio abbia più resa. Però già io ricordo anche di aver fatto altre prove tempo addietro, no? Tipo che con la base magnetica Midland sua portavo un cavetto, cioè quel cavetto che va al bullone, io lo portavo alla base magnetica, al PL femmina, no? Ci abitavo l'antenna in modo che comunque, anche se la base magnetica facesse contatto vero e proprio con la carrozzeria, beh, non cambiava nulla di resa, né di ricezione, né trasmissione, né stazionaria, a dire il vero, lo sai. Gala, via. Magari l'antenna che non va bene. No, ma il bello che funziona, cioè ricevo, almeno ricevevo, quando uscivo, ti ricordi anche quando ho provato da Porto Torres, quando ancora c'era gente, no? Subito dopo la liberazione dal Covid, no? Magari sono io che mi sto mettendo un bel di paranoie, un bel di seghe mentali, e invece l'antenna deve funzionare così e basta, appunto. Anche con questo cavo che non fa coso, non cambia nulla. Masco, stazionaria, quanto c'hai? 1,2 circa sull'1 e 1,2 sull'80. L'ho tarata sul 40, centrobanda. Sul 40 praticamente non si muove nemmeno. Allora va bene così, lasciala così. Io invece il contrario, io l'ho tarata 1,1 e 2 negli altri canali, e sul 40 mi dà 1,4. Proprio ieri sera guardando dal Tranforum e l'altro, avevo sentito qualcuno che si lamentava della Mini Turbo. Problemi di taratura della Mini Turbo, che però una volta non c'erano, è come che avessero o imbastardito i materiali, o peggiorato le rifiniture, le saldature, o cambiato la bobina. E insomma, invece di migliorare, stiamo andando più a risparmio che mai. Allora, io mi ricordo quando ho preso la Turbo 2001, il tipo che me l'ha piazzata, che è lo stesso che avevo interpellato per farmi questo lavoro, mi ha detto: io ti posso piazzare tutto per bene, però non ho lo strumento per regolare le stazionarie. Io gli ho detto: quello non ti preoccupare perché ci penso io. Ha fatto tutto il lavoro, sono andato al quadrato, piazzato l'antenna, indovina quando ci aveva, non si muoveva nemmeno l'ago, appena si muoveva in tutti i canali, era perfetta, tarata al massimo. Sì, alle volte capita che la trovi tarata. Se tu guardi poi tipo il manuale, dicono sempre che le antenne sono già pretarate in fabbrica, invece poi magari sono sballate del tutto, no? Quando le metti sulla macchina o quando le metti anche sul tetto, no? E poi non so quali siano i parametri loro per pretararle, come le, a quanti metri dal suolo le mettono, ma non sono pretarate, sono tutti calcoli che fanno, teorici, poi se è tarata bene, se no dice già se la tarano. Comunque bisogna stare attenti a che antenne si prendono. Per esempio la mia è la ML145 della Midland, no? E per dire 100 watt li regge senza problemi in AM, no? O circa. Invece la ML145 fatta dalla President, allora guarda le balle che hanno detto. President non è una marca così, President è quella dei baracchini. Allora, dichiarata per essere 5 ottavi, balla, 6 dB di guadagno, super balla, e poi 600 watt di picco, beh, uno l'ha usata con 100 watt, con linearetto classico da macchina da 100 watt, parlando normale, e si è sciolta, cioè si è arroventata la bobina che era sottile, si è sciolto il supporto della bobina, no? Quella plastica centrale, che non era manco teflon ma era plasticaccia, e aveva messo i video su YouTube già. Quando riavrò il telefono ti farò avere le foto di come si è ridotta quell'antenna con un normale 747 o giù di lì. Quindi sono dei bugiardi poi. Bugiardi dicendo che 5 ottavi, bugiardi dicendo che ha 6 dB di guadagno, mai gira gira una direttiva pure lì. E poi 600 watt di picco, che bugiardi che sono allucinanti, guarda. Cazzo, pur di vendere raccontano balle, però non è giusto, perché se uno... compra deve avere la cosa che desidera, non è che compra così. Vabbè, naturalmente poi uno che è minimamente accorto se ne accorge che comunque non, cioè, veicolare 5 ottavi non avrebbe senso farla. Cosa devi avvolgere? Un chilometro di bobina? Cioè, c'è capito, vabbè. Quel guadagno lo stesso non... Vabbè, ci siamo capiti comunque. E poi la cosa peggiore è che ti puoi rovinare i finali dell'apparato anche. Cioè, quando quella si squaglia, che proprio si è piegata la base. Vabbè, con le foto capirai meglio, dai. Un casino è già. No, ma sei stata abbastanza esplicito spiegata. No, non ho capito come. Io ne ho visto una al quadrato facendosi rossa di antenna. Proprio diventata incandescente, rossa. Dice non ce la fa. È una persona che ha attaccato più watt in questa antennina, o mi pare che era proprio la mini turbo. O forse la Vinox. Si è fatta rovente. Ma la bobina o lo stilo? Lo stilo! Lo stilo! Vai tu! E cosa gli hanno messo? Un kilowatt sotto? Non un kilowatt, ma forse 600 watt. Il cacchio! Ehi, può danneggiare l'antenna anche, le saldature si sciolgono. Vabbè che quella c'ha, credo che la mini turbo abbia dei rivetti, vero? Come degli occhielli per bloccare la bobina all'estremità, o sbaglio? Non l'ho smontata, Marco, non lo so, io c'è il tappo, non l'ho mai smontata, io com'era l'ho rimessa dentro l'armadio, montata com'era, e non l'ho più usata perché sono un po' disgustato, la verità è questa, non ho potuto prendere una decisione perché non c'è più nessuno in cosa, in frequenza, cosa prendo, decisione di spendere soldi e poi per non utilizzarli. Va bene, estate, c'è, in estate è così comunque. Io, vabbè, sto molto a casa, però anch'io non certo che mi dedico a altre cose, alla musica, però bassami, musica rilassante. Mamma mia, non sa dove sbattere la testa. Il picco mi pare sia domani, di calore. E comunque siamo ancora, magari tutto settembre fa così caldo, per carità. Io Marco ascolto tutti i tipi di musica, da quella da discoteca, quella rilassante, ascolto gli America, ascolto i Queen, ascolto gli AC/DC, ascolto i Pink Floyd, insomma diversi gruppi. America, tutte quelle musiche lì che mi piacciono. Sì, ma io un po' di tutto, poi magari sono musiche anche messe a basso volume, anche da discoteca. Io vado dalla musica classica al death metal, tutto quello che c'è in mezzo, blues, rock, tutto fa brodo, basta che sia, che suoni bene all'orecchio, ok. Quindi che palle, queste giornate non finiscono più, non finiscono più queste giornate. E d'altronde Mino, ci ho perso anche la passione un po' del mare, non ne ho più voglia già. Oh, la verità anche io, perché poi devi stare a pulirti tu, a pulire la macchina, a lavarti, a fare tutta la casa piena di sabbia, oh, è un casino. Vabbè, per la macchina problema non me ne metto, mi ricordo che avevo la sabbia e gli aghi di pino da... Una volta si era seduto, sì, quando eravamo andati in pizzeria, ti ricordi quando c'era seduto Claudio in macchina e dice che ha visto che era mottinaggio, c'erano lattine vuote, bottiglie vuote, carta, di tutto c'era, una discarica sembra. Sì, quando lo senti chiediglielo. E ti ribatti, no? No, a me piace pulita la macchina, vabbè. Io sono molto pignolo, la pulisco spesso e volentieri, almeno una volta alla settimana la lavo. Cosa non c'era? Bucce, come dire bucce? Sai le confezioni dei tramezzini, non di plastica, vuote, roba mangiata in macchina e poi buttate le bucce dietro. Insomma, riaga. Vabbè, adesso non sono a quei livelli, però quello che trovi in estate è molte bottigliette di plastica, perché io bevo come un cammello, le ho buttate giusto l'altro giorno nel cassonetto, ho fatto il mazzo e le ho tolte tutte. Cosa fai, lo raccontare la plastica in mazzo? Sì, praticamente sì. E poi spesso volantini, mamma raccoglie un bel di volantini, no? Quando andiamo nei codici, a volte rimangono in macchina, quindi carta, plastica. E una volta ero più fissato, lo stesso aspirapolvere, lavata. Non, poi c'è troppo caldo per fare tutto adesso, qualsiasi cosa faccia mi dà caldo, quindi meglio stare mobili. Ma io la porto a lavaggio, a Canica, perché hanno le spazzole adesso fatte in un materiale che non te la graffia. Hanno lavato anche prima della mia una macchina nuova, una Porsche Cayenne. Me ne ha fatte toccare perché io sono Sant'Omaggio, ma sono tipo, è presente quelle spugnette che usi per asciugare il lavandino, che sono di gomma più, ma sono così le fasce che lavano la macchina. Soprattutto quando è nuova la macchina, meglio non usare spazzole, perché quelle di una volta te la rigavano come la macchina, caspita. Vabbè, quella che abbiamo noi è vecchia, ormai la carrozzeria è distrutta dal sole, dal freddo, dalla salcedine, dalla sabbia, da tutto, dalle toccatine avanti, dietro, ai lati. È andata la vernice e quindi non mi metto problemi, però, capito? Invece quando è nuova devi avere una cura maniacale. Beh certo, però ho visto che dopo 5-6 lavaggi non ci sono segni né nulla, vuol dire che la cosa funziona, capito? No, capito. A parte che non la lavano solo con le spazzole, ti fanno la pulizia interna, eccetera, eccetera, se vuoi, con 15 euro. Se con 5 euro te la lavano solo fuori, io la faccio fuori e poi dentro me la faccio io maniacalmente. Quando è nuova poi si vede subito, mi conosce qualcosa. Magari quando c'è i tappetini un po' vecchi si nota meno. Vabbè, comunque sia, già te l'avevo già detto che anche mettendo la base Sirio, comunque tornando alle scorse antenne, l'innesco c'è lo stesso in trasmissione, quindi in realtà l'antenna non ha niente, né la base né l'antenna, è un rientro probabilmente dal cavo. E me lo tengo, pazienza, uso quello che si può usare in macchina, il 3009, il migliore, il pure omologato, e cosa vuoi dire? Che non sia il microfono, Marco, che microfono stai usando? Quello di serie. Boh, che strano, è un bel strano. Ma hai collegato anche l'aiutino? No, no, no, nudo e crudo. Baracchino, nudo e crudo. Cavo dalla batteria. Potrei fare una variante attaccandola all'accendisigari, però tanto sempre cavo mi arriva. Conta poi che l'apparato c'aveva un metro e mezzo di cavo, cioè certi cavi sono lunghi, troppo lunghi. A meno che filtrare da lì in ferriti, usare qualche ferrita, qualcosa per... Comunque ho letto anche di gente che quando aveva questi problemi in macchina ha messo ferriti, ha fatto tutto il possibile, tutto quello che gli hanno consigliato, e il problema rimaneva lo stesso e si sono arresi. Marco, ma perché pensi che sia il cavo elettrico? C'è un innesco, da cosa è dovuto di solito? Da un rientro RF. E da dove può rientrare? Cioè il rientro RF da dove può essere? Secondo me è dall'alimentazione la cosa più ovvia. Allora, lo possono fare sia le stazionarie alte, sia un microfono amplificato, sia se tu hai parla ascolta l'apparecchio, anche l'eco lo fa, quindi a volte abbassando solo, hai provato a abbassare il mic gain e vedere un po' se te lo fa lo stesso. Tutto approvato, mic gain basso, 4 watt, il microfono rigorosamente di serie, tutto quello che hai detto, stazionarie inesistenti, massa, cioè base magnetica oppure massa effettiva su carrozzeria, non cambia, però devo fare altre prove, non devo riuscire a capire, a meno che non rientro di RF non sia direttamente dallo spiralato del microfono. Quindi ribadisco, 4 watt, cioè potenza minima, ho abbassato il mic gain e niente, innesco lo stesso, autoascolto disinserito, rigorosamente disinserito, proprio spento, niente eco. Guarda, non so cosa altro pensare. Marco, mi hai detto che l'hai provato con svariati microfoni con l'apparato. Perché provando a cambiare microfono si può vedere se è quello? Non posso già. Non posso perché non ho microfoni alternativi. Aspetta, uno mi pare sia 6 o 7 poli. Cioè non ho microfoni con quel cablaggio. Volevo prendere quando possibile, che ne so, quello della Midland, no, il DMC come si chiama, oppure il Lafayette DMC 507, e prendere lo spin 8 a 7 o 6 o quanto è e fargli i collegamenti e provare. Però sempre spese, cioè alla fine compri e non è quello, compri cosa non è quello, compri i ferriti e non è quello, alla fine, tanto me, da 27 credo che sia al capolinea. Poi questa cosa ambigua che hanno tolto i 12 euro da pagare, addirittura nemmeno dichiarazione, secondo me è ambigua la cosa, non lo so cosa c'è sotto. Ma ambigua per quale motivo? Nella gazzetta ufficiale è uscita e quindi non è una cake. No, dico che si inventeranno qualche altra stronzata quando ci sono i normali posti di controllo, magari chiedono, che ne so, tutta roba magari che non hai appresso ovviamente, tipo il certificato di conformità, e chi è che se lo stampa, che si fa la copia dal libretto? Non lo so, non lo so, non dovrebbero chiedere niente in teoria, libero uso vuol dire libero uso, poi non lo so se chiedono ECE, non ECE, tutte queste menate che stanno inventando per tutte le cose di sicurezza, anche i cellulari sono... Gli smartphone sono a norme CE, eppure certi gli scoppia la batteria al litio in faccia e magari ti fa pure cieco. Questa è tutta norma CE, capito? Vabbè. E comunque io non mi sarei arreso, Marco, avrei provato e riprovato, ho cambiato apparato, a vedere se era il tipo di apparato, se era... perché ci sono le dappati, sembra così, per dire, il Midland, che ho provato in macchina, sull'accendisigari proprio tu primi la portata è come se avesse il finale bruciato, tu primi la portata e non si muove, manco la lancetta, niente, non si sente nulla, nulla, niente, proprio non funziona. Metti l'altro, metti quello che ti ho fatto vedere io e si accende tranquillamente, si sente, parli tranquillo, è una cosa, perché sicuramente il doppio modulatore ha un medio assorbimento come ha detto Gigi e quindi non ce la fa entra protezione. Mia Eugenio mia, beh Eugenio, come andiamo? Eugenio, che si dice che c'è un medicaglio, non so dove tu sia, però io adesso sono a casa sdraiato col condizionatore acceso, che era un caldo da grimba, stavo bollendo dentro. E Marco Condor, avanti Marco. Mi copia Eugenio, sono piccolo. Accaldato. Bisogna stare in stasi, altrimenti c'è troppo caldo a muoversi. Sento propagazione. Basta accendere il ventilatore, già va bene lo stesso. Anzi, questo non è caldo pericoloso già. Guarda che siamo arrivati certe volte a 40 gradi all'ombra, questo è niente. Ah, io già sto bene così, la verità, solo l'aria condizionata. Sto facendo la vita da topolco, bello sdraiato. Porca miseria. Poi già, altre prove che potevo aver fatto... Una volta ho proprio tolta la base magnetica, la stessa antenna messa su quell'attacco a portiera, con massa effettiva, provato con massa effettiva, senza massa effettiva, nulla, innescava lo stesso. Che te devo dire? Quindi non è mancanza di massa, quello lo escludo già, assolutamente. Sì, è una massa riportata che qualcuno, un radiamatore mi ha arrocciato, mi ha detto no, le masse riportate non vanno fatte. E dico, vabbè, ma meglio averla che meglio non averla. Che poi ricordate già, in realtà, cioè il baracchino è già a massa col negativo della che va alla batteria e la batteria è collegata al telaio. Allora io mi ricordo che una volta ho avuto lo stesso problema, che avevo messo una treccia di massa, non mi ricordo da dove, forse dalla batteria alla carrozzeria, ed era andata bene la studia, non me lo faceva più. No, ripeti, dove l'hai fatta questa... Cos'è collegato? Dalla massa della batteria l'ho collegata alla carrozzeria. Ma la batteria è già massa col telaio, giusto? Col telaio della macchina, con la carrozzeria. Dovrebbe avere già un cavo vero e proprio, sto sbagliando io, una trecciola di rame, boh, come lo ricordo. Vabbè, ma probabilmente è una cosa ausiliare che vi è andata bene. Io ho provato, ma l'aveva detto un amico di fare così, ho provato e ho risolto il problema, adesso che mi ricordo. E c'ho ancora la treccia che avevo messo, saldata, col pezzo del cavo e tutto quanto. E me lo ricordo bene. Avevo messo una di quelle trecce gialle, verdi, astice verdi. Ciao Eugenio, Allora ciao, non mi hai detto come ti sta arrivando lì a Porto Torres, se mi ascolti bene o male. Va bene Eugenio, dai, ti auguriamo un buon lavoro, dai, magari ci sentiamo quando esci, ci siamo. Avanti, avanti. Ciao Eugenio, semicoppi, mi è sparito quasi, poi sento dei mini segnalini, credo di propagazione. Anche gli americani in un video tutorial, no, come piazzare e tarare un'antenna, hanno fatto vedere, sai che loro spesso hanno quelle macchine tre volumi, no? Con quell'attacco a baule posteriore, no? Trunk, top, come si chiama adesso, non mi ricordo. E anche lì, se necessario, dice, prendere una trecciola in rame di generose dimensioni e loro raccomandavano che fosse più corta possibile, ci deve essere un perché, capito? Dice di collegarla al bullone più vicino possibile. Vabbè. Comunque io ti riporto parole dette da radioamatori trovate su forum, che appunto la massa riportata, cioè con cavetti più o meno lunghi, non andrebbe fatto, comunque più corti possibili. Sì, il mio è corto infatti, non è lungo, è corto. L'avevo collegata dalla batteria al coso, alla carrozzeria, c'era un bullone, l'ho smollato, gli ho messo una freccia di massa e l'ho ristretto. E non mi ha più fatto quel fischio. Anche a me lo faceva, lo sai, adesso che mi ricordo. Però me lo faceva solo con quella struttura inserita. E se tu ti ricordi, sempre nella mia macchina, la scarpetta auto-oscillava, andava in auto-oscillazione anche quando muovi la portante, con l'affare continuava a sparare RF in modo, ti saliva il corrente a 9+. E secondo me è tutto problema di cavo di alimentazione lunga. Infatti la RM Italy raccomandava di fare il cavo che arriva dalla batteria più corto possibile. Parole scritte sul manuale. Cioè il cavo che arriva dalla batteria deve essere il più corto possibile. E Marco, ma deve arrivare nei punti dove la devi mettere, scusa. Più corto possibile cosa vuol dire? Devi mettere l'apparecchio sotto il volante per essere. Perché io per dire la batteria ce l'ho dalla parte del volante. Dovrei mettere l'apparecchio dove guido. No, non l'apparecchio, lì si parlava di linearetto, ma ormai il linearetto è storia antica, chi ne usa più? Tu per parlare con chi poi? Per parlare col muro? Cioè il linearetto andrebbe messo più vicino possibile al vano motore, capito? Secondo loro. Comunque se lo dicono di mettere il cavo di alimentazione il più corto possibile, ci resta un perché. Va bene, comunque il 3009 tutti questi problemi non ce li ha, il 3009 è eterno, esce discretamente di modulazione, tanto vale usare quello. Poi ho problemi di ingombro, ne ho, tanto hai visto quelle viti, no, che lo aggancio lì sotto, è bello stabile. Ma il 3009 non fischia? No, il 3009 non ha problemi di sorta, non ha alcun problema di sorta. Invece questi apparecchi fighetti, tutti in SMD, miniaturizzati, 3009, componenti classici, no? Eppure dicono che gli SMD dovrebbero essere più, non so, tolleranze migliori, adesso non mi ricordo le parole che hanno usato, no? Dovrebbero essere fatti più con cura, più schermati, tutto ciò che vuoi, però poi... Bah! Comunque un macello, perché... vabbè, poi ti spiegherò. Sì, dimmi, qua sono. Lasciamo un attimo di spazio, se vuole entrare qualcuno. Vai, Marco. Eia. No, degli apparati, della funzionalità di questi apparati qua, anche per il microfono è un problema. Se ci hanno attacchi diversi, una 4, una 5, una 7, cioè come fai a avere... Dovresti fare un 10.000 adattatori... Poi per cosa? Per mettere un amplificato e magari fischia anche quello. E se ti ricordi il DM1000, quello che ti avevo dato, no? Appena comprato, messo in macchina sul 3009, che già di suo non ha problemi, fischiava, l'autoascolto era zero. l'eco era zero, fischiava comunque, anche se gli abbassavi l'amplificazione. Perché comunque hanno scritto su vari forum, è risaputo anche quello, il DM1000 è ben poco schermato per la RF. Ben poco schermato, e quindi in macchina c'è l'antenna lì, capito, a pochissima distanza, e fischiava. L'M93 non fischia, per dire, guarda, due microfoni, stesso apparato, stessa antenna veicolare, uno fischia, l'altro no. Non sono tutti uguali mai. E adesso io ti dico una cosa, questo che tu senti è quello che mi hai dato tu. L'ho usato anche in macchina, il DM1000, non mi ha mai fischiato con nessun apparato, eppure lo usavo in macchina, non fischiava, a me non fischiava, è sempre una questione di antenna, di impianto, di tutto, capito? Bisogna vedere, per dire, l'antenna solo me l'aveva piazzata quello di coso, di Pudine, mi aveva fatto il buco e tutto quanto. Cosa, il cavo elettrico, poi diciamo che ho sistemato tutto io, l'impianto lineare eccetera eccetera, me l'ho fatto tutto io e non fischiava, caspita, andava benissimo, uno e uno ci aveva con l'ineare attaccato. E non fischiava, dipende da macchina a macchina, anche probabilmente anche quello. Comunque dico, il DM1000 è una cosa imperdonabile, erano quei filettini esageratamente sottili, ma quando mai fai un microfono con fili da quant'era, un millimetro o meno? Cioè, fallo pagare un euro in più, due euro in più, ma mettili fili da un e mezzo, che ne so io. Ma quando mai? Ma non fa aprirlo questo microfono, perché come lo apri si staccano i fili, tocca saldarli, devi ricordarti dove erano eccetera eccetera, perché sono talmente io in uno che poi ho dato con un baracchino che ho venduto, che forse ho fatto male a dargli, devo dare quello normale. Praticamente gli avevo cambiato tutti i fili, mi ero appentato ed avevo messo fili tipo quelli, così per intenderci, dell'attacco per la batteria, tutti i fili così li avevo messo. Poi quella porcheria di Astatic preso dall'America, per carità. E guarda che gli americani avevano il coraggio di dire che tipo l'MB più 5, no? L'MB più 4, se, insomma, i microfoni ZG uscivano notoriamente malissimo, a detta loro. E belle saranno quelle cagate di Diastatic. Il mio tutto metallico e acutissimo, tu lo stesso ti eri lamentato con Rod Devil. O Red Devil, che ti dicevano sei troppo metallico, troppo acuto, alla fine ti eri buriato e l'avevi dato. Sì, è vero, me lo ricordo. Poi dicono che c'ha l'antisoffio, dicevano che quando c'erano i finestri aperti si sentiva il rumore del coso, del vento. Questo dice che aveva il sistema antisoffio, addirittura c'aveva un bordino che appoggiava alla bocca, se ti ricordi, il Red Devil. A me non è piaciuto, sinceramente parlando non mi è piaciuto come usciva e l'ho venduto subito, però ho pagato 75 euro mi pare. Sì, in Italia costava così. Mi pare lo vendesse anche tipo FLQ elettronica, no? Sì, veniva intorno ai 70, poi spesso la spedizione, dipende dai modelli. Gli Astatic andavano bene, quelli di 20 anni fa, di 30 anni fa, ce n'era uno al mare che poteva regolare sia il tono e sia l'amplificazione. Quello dice che è un bijou, vabbè, lo dice a chi ce l'ha naturalmente, quindi è di parte il giudizio. Ma non li fanno più, adesso sono troppo commerciali, poi sicuramente sono fatti in Cina, non sono fatti nemmeno negli Stati Uniti quelli là. Vabbè, se uno non lo prova, Marco non può dire, non può dare il suo parere, però io quello che ho avuto Red Devil, ce l'aveva anche Tulipano di Porto Torres, c'aveva lo stesso microfono, adesso non ricordo se l'ho venduto io o chi l'aveva venduto, però non mi piaceva come usciva, era troppo metallica, è vero, ma anche il Tamer più 3 dicevano che era metallica, la, no, il SAR più 2, scusa, non più 3, quello da Palmo, M più 2U, l'ho venduta a Stefano perché io l'avevo comprato nuovo, proprio su internet, da uno che ce l'aveva ancora scatolato, l'avevo comprato e ero contento perché quello era un microfono che io usavo già con la Gain Quinto a sua volta quando era a casa di mamma e andava bene con la Gain Quinto, però con questi apparecchi che avevo usato io mi hanno detto che usciva metallica la voce e allora me l'avevo venduto. L'ho venduta a Stefano, me lo ricordo ancora, infatti ero ben contento perché era nuovo. Eia, ma io l'ho conosciuto marginalmente. Sai chi usciva bene con quel microfono? Vittorio Giove, ti parlo di 30 anni fa, però lui credo che l'avesse ottimizzato, modificato e aveva una modulazione super, non metallica, anzi bella mascola, cioè bella corposa. E comunque sì, c'è poca scelta adesso, non... c'è il ZG, c'è niente più, ti parlo di roba nuova, poi di vecchiume, vabbè ce n'è in giro, però certi li cambiano la capsula, certi li modificano il circuito e non sai mai cosa compri, capito? Lo dovresti sentire a orecchio prima, soprattutto su questi mercatini dei forum. Ti ricordi quella cosa che io avevo comprato, no? Quel transverter che poi mi serviva per ricevere alla fine. Funziona tutto, trasmissione, sì, tranquillo, e poi non funzionava in trasmissione, per dire. Ho provato su carico fittizio, niente, non funzionava. Quindi io il primo e ultimo acquisto che faccio su quel forum là, capito? Sono tutti uguali alla fine, i venditori di roba usata. Perché loro dicono che da loro funzionava, solita storia, tanto mi anche se glielo sperici indietro, quello è capace che si tiene l'apparecchio più i soldi, eccetera, eccetera. Sai adesso quanto costa il 747 a Sassari? Se te lo dico non ci credo. 80 euro? 98, con lo sconto 90 euro. Quanto io li possa voler bene a causa della DVC, ma questi sono prezzi non da farmacia, da mascherine Covid proprio, strozzinaggio. E poi non ha senso, perché l'RM, il KL203, che poi dentro è identico, no? 747 dentro, non so se è il nuovo o il vecchio, dentro ha un RM KL203. Ti costa, mi pare, spedito 48 euro, per dire, spedito già. Vabbè, vuol dire che vuole tenere roba ad ammuffire in magazzino. Boh. Beh Marco, io ti dico una cosa, io quello lì non lo comprerei più perché l'ho comprato e mi si è bruciato. Subito mi si è bruciato immediatamente, quell'apparecchio che dici tu. Quello rosso stai dicendo? No, allora, era blu elettrico, anni fa era blu elettrico, adesso l'hanno fatto tutto nero, gli hanno cambiato il colore, che a me non piace comunque. Addirittura, può darsi pure che ancora prima fosse rosso, perché molti modelli simili erano rossi. Capelle 203, però già io, cioè, collaudato, non... a meno che non abbia stazionarie o problemi in antenna, non dovrebbe dar problemi, dai. Oppure è uscito difettoso di fabbrica, che ne so. Aspetta, sto guardando, Marco. Ricordati, RM, Roma, Milano, KL203. Che poi c'è la versione P di Padova, che ha uno schifosissimo amplificatore d'antenna, che ti alza solo il QRM e basta. E ha lo stesso effetto che alzare il volume della radio, non cambia nulla. Eccoli qua. Allora parte da KL203, parte da 66,49, scende sino a 55,34, l'amplificatore viene RM Italy, vediamo un pochettino questo qui, questo RM Italy, quanto costa? I prezzi sono saliti comunque, io mi ricordo a suo tempo 40 euro più la spedizione, tipo 6,90 la spedizione, 40, 47 euro spedito, per dire. Adesso costa di più però, perché stanno passando gli anni e stanno alzando i prezzi. E comunque non ti dice quanti watt c'ha, non ti dice un cavolo qua, questo qui c'ha tre pulsanti questo, che dovrebbe essere superiore. No, KL203P si chiama. Questo c'ha tre pulsanti. Quello è l'amplificatore già, è un preamplificatore d'antenna che non serve a nulla, nulla, nulla, nulla. No, io parlo della versione classica che ha on, off, AM, SSB, cioè il tasto di accensione e poi il tasto AM e SSB praticamente come moglie la portante c'è un attimo di relay, stacca più tardi, no? Vabbè, perché lo sa che parli in SSB, se i watt salgono e scendono, vabbè, già hai capito. Vabbè, in ogni caso questo qua costa 59,95, 59,95 più spese di spedizione, e ti viene esempi quel tanto lì, così è un casino, stanno un bel, no, stanno un bel adesso. Guarda, i prezzi più bassi di quei lineari RM Italy su eBay ce li ha ES Radiotel. Il venditore si chiama ES Radiotel e ha i prezzi più bassi per gli RM Italy. Tu conta che comunque classico da 100 è quello che ha il rapporto prezzo prestazioni migliori. Capito? Perché alla fine se vuoi aumentare di un ulteriore Santiago devi quadruplicare la potenza, però ti si quadruplica anche il prezzo del lineare, capito? Devi passare da 100 teorici, teorici sempre, a 400 watt, sempre teorici, ti costa 4 volte tanto se non di più. Ma qua non c'è un pagamento quando ricevi, tu dopo vieni giù, qui a lineare di Givini, Marco, ti cos'hai il tuo buro fino a... Radiotel, se è quello, PayPal, beh io con eBay compro solo con PayPal, anzi bisogna stare attenti ai venditori che ti mandano un messaggio email, cioè le comunicazioni delle compravendite devono avvenire tramite i canali di eBay. Bisogna evitare venditori che ti propongono di pagare tipo con PostePay e te lo scrivono via email, capito? Nella email privata. Lì potrebbero essere anche truffe. Sì, ne ho beccato una grossa io di truffa, baghisci, non mi fido molto, né PayPal, né carte, né cose, non mi fido più. Una volta mi hanno imbuttito, la seconda no, adesso per dire, c'è questa tipo ogni volta che io entro su internet mi chiama questa qua, ciao, cosa stai facendo, questo e quell'altro, ah, tornati da giudizio, vai vai, secondo me di quelle che ti chiedono soldi come hanno fatto con la persona. Sì, guarda, tutte queste, questi presunti siti di incontri, a parte che devi dare l'email, no, i dati e così, la prima cosa che poi ti chiedono la carta di credito per poter chattare. Poi a seconda di chi trovi, se sanno per esempio, se chatti, certe sono organizzazioni senza scrupoli e poi non si sa dove, se dell'estero o quello che è, no? Cioè vanno a indagare se sei sposato, e magari ti chiedono di spogliarti in chat, poi ti ricattano dicendo che fanno vedere foto a tua moglie, che stavi tradendo, se non cose peggiori. E sono tutte uguali. Dice accesso gratuito, sì l'accesso è gratuito, l'ho visto da persone che spesso che si pazzicano, no, io no. E poi però la prima cosa che chiedono se vuoi chattare con le tippe è il numero di carta di credito. Ed è pieno, pieno, secondo me poi fanno capo a pochissime società, due, tre, sono sempre quelle, però ci hanno, vedi, queste chat con tanti nomi e sono tutte fruttidure. No, ma io non sono entrato nel suo sito di incontri, mi appare così, mentre io per dire sono entrato su internet e ti appare la finestra e la tipa che cerca di rimorchiarti, capito? Ah, come fosse un banner pubblicitario? Ma quelli sono banner predefiniti, cioè magari credi che stia chattando con te o... in realtà non... cioè il bersaglio non sei tu, arriva a tutti, pubblicità sono quelle, sì, sì, già ho presente. Me lo sono trovato anche richieste d'amicizia, ho preso e l'ho cancellato. Non li voglio manco sapere, sono apposta entrato nel suo profilo e amici non ne ha, c'è solo lei, questa qua che vabbè lasciamo perdere, la ciga che è dura di quelle che si fregano così con nessuno, a me però non mi buttini, io prendo e ho eliminato tutto, cancellato, adesso spero che non mi rompa di nuovo le scatole, ma non l'ho più vista. Oh, caro, sentito il bacino. Questo è Antonio, ciao Antonio. Ciao già, è all'ombra. E allora, ciao Marco, come va? Ciao Antonio, non ti ho riconosciuto però, Antonio ok, riserva o altri? Riserva. Già, io riserva. E oggi stai arrivando basso, di solito tu da lì arrivi bene. Oggi stai arrivando 8:30, meno di 8:30, dai, comunque già arrivo. Già, comunque ci sono anche tipe che magari all'inizio ti fanno chattare, poi trovano la scusa che hanno finito il credito e quindi se vuoi continuare a chattare le devi mandare un pagamento post pay o comunque con altre cose lonfie, Western Union, non lo so, tutte truffe sono, tutte. Antu, avanti. Sì, non fidatevi, no, fate per andare gratis, se non è pagate. Ma è pagato io. Ui, quante ce ne sono di queste associazioni a delinquere? No, questa qua, Antu, appariva per dire, io stavo chattando, mi appariva la finestrella e capito, ti chiamava, ciao, vuoi fare amicizia con me, questo e quell'altro. Poi me la sono trovata nelle richieste di amicizia, ho preso e l'ho giù cancellata, adesso non la vedo più. Sì, anche a me ogni tanto me ne mandano richieste di amicizia, quelle contatti via WhatsApp, via Skype, mamma, fanculo. Ma sono nomi strani, io me ne accorgo da quello, hanno nomi strani, sono esteri secondo me. Sì, vabbè, sono cose che si inventano, nomi che si inventano loro, sono, praticamente non esistono quelle persone, sono i computer che sono lì per farti, per creare soldi. Truffe. Eppure c'è gente che se l'ha bevuta. sì, anch'io conosco qualcuno che è dovuto andare addirittura, ha avuto problemi grossi, è dovuto andare addirittura alla polizia postale, non tra le denunce, comunque sono ricatti, se fanno di tutti i colori. E io ti chiedono i soldi, se no praticamente dicono che mettono che sei un pedofilo, ti mettono in tutti quanti i forum, eccetera, eccetera. È un casino, sono organizzazioni. Marco, e tu? Io già sono finocchio, io non ne frequento siti femminili. Sì, già, è così, infatti perciò se queste chiedono di chattare, cosa che non fanno mai, perché per arrivare a chattare in webcam vuol dire che uno ha già pagato, una volta che hanno la tua immagine la possono inserire in qualsiasi sito, anche molto illecito, no? Come hai detto tu prima, si possono inventare qualsiasi cosa, poi devi andare tu a spiegare, tutto un imbroglio. Comunque è anche vero che la, come si dice, il furto all'anima del commercio, sono tutti siti per imbrogliare, questi a sfondo sessuale. Una volta esistevano gli 899, adesso è diventata anche più losca la cosa, capito? E sono sicuro che molte siano dei bot, quelle che tu non vedi fisicamente, sono dei bot, come ha detto Antonio poc'anzi. cioè tu sei convinto magari di chattare con solo testo con una ragazza, magari è un bot, cioè quelle pseudo intelligenze artificiali, no? Che ha già delle risposte programmate in base a quello che gli chiedi. È tutta una fottidura, vai Anto. Sì, che poi sì, praticamente loro dalle tue risposte, dalle risposte che dai, riescono a fare un identikit del tuo carattere, no? Allora ti fanno delle domande particolari che sanno, dalle quali, dalle queste domande loro sanno